Euroreportage. La Grecia al voto. Tsipras non spaventa più l'Europa. Di Valeria De Rosa. Risultato di un lungo cammino di intensificazione del controllo fiscale nel paese, una cosa di cui la Grecia deve assolutamente andare fiera e di cui bisogna rendergli merito. Devono essere orgogliosi i greci, afferma Fabio Foyce, Southern European Economist di Barclays, perché i sacrifici fatti stanno dando risultati. Il paese però, socialmente parlando, è allo stremo. E domani dovrà scegliere il prossimo governo che lo guiderà e che, lo sperano in tanti, riuscirà a risollevare le condizioni di vita di molti. Una chiamata alle urne non prevista, forzata dal premier uscente Samaras, che fiutando adesso la sconfitta sta inasprendo lo scontro, affermando che la Grecia diventerà come la Corea del Nord. Secondo gli ultimi sondaggi, i consensi per la favorita Syriza si aggirano intorno al 35%. Segue la Nuova Democrazia di Samaras al 27%. I centristi di Topo Tami, la vera novità del 2014, sono tra il 6 e il 7%. Poi i socialisti del PASOK, il Partito Comunista, le due formazioni di destra, gli indipendenti di Anel e Alba Dorata e la neonata formazione di George Papandreou, Kinima. Poco meno di 10 milioni i votanti, poco di più sono i greci nel complesso. Appena sarà certo il risultato, il partito che avrà preso più voti avrà 3 giorni per formare il governo. Se dovesse fallire, la stessa possibilità sarà data anche al secondo partito. Il sistema elettorale greco è un proporzionale con premio di maggioranza al primo partito. Gli ultimi sondaggi danno per certo il vantaggio di Syriza, che forse potrebbe anche strappare e arrivare a quel 37% che regalerebbe a Tsipras 50 seggi in più. Ma sarebbe comunque una maggioranza sottile. Un'alleanza, con Topo Tami per esempio, porterebbe stabilità. In ogni caso, chiunque guiderà il Parlamento di Piazza Sintagma, da Bruxelles hanno già fatto sapere che dovrà tener fede agli impegni. Oggi la Grecia è, da un punto di vista macroeconomico, probabilmente un paese migliore, nel senso che per quanto si ritrovi ad avere un debito più alto di quello che aveva qualche anno fa, ha fatto alcune riforme strutturali che dovrebbero aumentare la sua competitività e in particolar modo ha migliorato la sua posizione di bilancio al netto del costo del debito outstanding. Di fatto la Grecia è uno dei pochi paesi dell'area dell'euro in primary surplus e questo la mette in una buona posizione per quanto riguarda la sostenibilità dei conti pubblici futura, nella misura in cui riesce anche ad aumentare la sua crescita reale potenziale. La questione è che con un debito pubblico così grande, la sua sostenibilità a questo punto dipende più dagli sforzi sul lato delle riforme strutturali che sul lato fiscale, perché bisogna aumentare la crescita potenziale. Bisogna generare buona inflazione, quindi l'inflazione che viene dal mondo dei salari nominali come effetto dell'aumento dell'occupazione, per mettere il debito su una traiettoria discendente, cosa che non è al momento. Il debito pubblico di cui parla Fabio Foyce è al 170% del PIL, la disoccupazione è intorno al 25%, un giovane su due non lavora. La crescita è ancora troppo debole, irrisolto il problema della corruzione, mentre l'evasione fiscale resta altissima. Fin qui gli sforzi maggiori sono stati sopportati da quella che all'inizio della crisi era la classe media. L'aumento delle tasse si è riversato per lo più sui dipendenti pubblici e privati. Sul lato dell'intensificazione della pressione fiscale, credo che di spazio in un paese che ha la disoccupazione della Grecia, che ha già pagato le tasse che ha pagato negli ultimi 3 anni, ne resta molto poco, a meno che non si tagli la spesa ancora in modo più drammatico, ad esempio tramite il licenziamento di dipendenti pubblici, cosa su cui il governo greco da un lato finora è stato molto restio ad intervenire e francamente qualora dovesse vincere Syriza è molto improbabile che accada in futuro. Quindi sì, bisogna migliorare la competitività del paese, bisogna fare riforme strutturali, attrarre investimenti. Questo è l'unico modo per mettere il debito su una traiettoria sostanzialmente in discesa. Dopo i timori della prima ora, subito dopo l'annuncio di scioglimento delle Camere, quando Tsipras è stato descritto come un pericolo per il suo paese e l'Europa intera, i toni e i timori sui mercati si sono ammorbiditi. Syriza ha presentato il suo programma a settembre a Salonicco, ribadita più volte la volontà di restare in Europa, il suo leader, Tsipras, mira a rinegoziare il debito. In casa, il partito ha messo a punto misure per circa 11 miliardi di euro per recuperare l'emergenza sociale. La sua comunicazione l'ha assolutamente cambiata, è vero, l'ha addolcita, soprattutto sul discorso del dentro fuori dall'area dell'euro. Questo era probabilmente il primo spauracchio, la prima grande paura che era associata ad una sua potenziale vittoria. Superato quel problema, però, io credo che poi ci sarà tutta la fase di implementation risk, quindi bisognerà capire come poi il governo Syriza, qualora dovesse essere eletto, è in grado innanzitutto di formare un governo, perché non è una cosa banale al momento, dati i pool elettorali in Grecia. Bisognerà vedere se poi riuscirà a presentare un'agenda di riforme che siano in grado anche di ammodernare, di migliorare la produttività nel settore pubblico, cosa che al momento non sappiamo, perché fin tanto che non va al governo non possiamo avere l'agenda. Quindi direi che ci sono due livelli di preoccupazione. Il primo, quello di impatto più immediato, è stato quello relativo alla questione del arriva Syriza, il paese vuole stare dentro l'area dell'euro o no. Superato questo problema, perché Syriza ha addolcito la sua comunicazione su questo fronte, bisognerà capire quello che sarà in grado di promettere e di implementare sul lato delle riforme strutturali. È possibile che una volta al governo Syriza, assieme agli alleati, metta in campo quelle riforme che alla Grecia servono da tempo, ben prima che i conti truccati la facessero precipitare. Un paese che ha sempre vissuto troppo sul pubblico, al di sopra delle sue possibilità. Allora forse Tsipras riuscirà a spuntarla, non tanto sul taglio del debito, quanto sull'allungamento dei tempi per la restituzione. Questa può essere una possibilità, quindi plausibile, sì. Ma per capire bene quale sarà il futuro greco, il governo greco dovrà, secondo noi, decidere se rimanere sotto l'ombrello quantomeno di policy implementation che gli è stato dato dalla Commissione europea, dall'ECB e dall'IMF. Quella sarà una condizione importantissima, secondo noi, per dare il messaggio all'esterno che c'è un forte commitment da parte del governo a risolvere gli ultimi problemi rimasti, di modo che la Grecia possa tornare su un sentiero sostenibile di crescita di lungo periodo. Fin qui i numeri, il debito, la troica. Non saranno sfuggite però le analisi degli ultimi giorni su dove sono andati a finire i 240 miliardi prestati ad Atene, perché camminando per la città è facile rendersi conto che gli ultimi 3 anni hanno messo in ginocchio gran parte della popolazione. Secondo una ONG inglese, solo 20 miliardi sono andati ai greci. Il resto è servito per risollevare gli istituti di credito ellenici, per pagare gli interessi, per rifinanziare la ristrutturazione del debito privato. Gli ultimi dati UNICEF, che risalgono al 2012, dicono che oltre 400.000 bambini in Grecia vivono sotto la soglia di povertà. Molti non vanno a scuola, non vengono più curati perché gli ospedali non riescono più a provvedere nemmeno alle vaccinazioni se non a pagamento. Numeri che trovano riscontro nei rapporti di Save the Children. Valerio Neri, direttore generale. Il numero di bambini che il nostro rapporto valutava ad essere rischio di povertà e di emarginazione in Grecia era tra il 35 e il 40%, quindi non stiamo parlando chiaramente di massima povertà con questa percentuale, no? Povertà assoluta, ma sono studi di indici di crescente povertà sotto gli indicatori da noi presi, e gli indicatori di questo rapporto sono indicatori che possono sembrare strani, ma quando adesso ne citerò un paio li capirete subito. Per esempio, stato delle abitazioni. Allora uno dice, vabbè, ma che c'entra la povertà infantile con lo stato delle abitazioni? Ma se un bambino abita in una casa fatiscente, dove non c'è riscaldamento, dove non c'è l'acqua, dove il tetto cade, sarà molto difficile che sia un bambino veramente performante a scuola. Sono quegli indicatori che cercano di fotografare qualcosa che sfugge alla classica analisi statistica di povertà. Tutto questo si aggiunge alle decine di giovani che sono partiti dalla Grecia prima o dopo la laurea, ricordando che le università pubbliche sono state molto ridimensionate dal governo Samaras, un taglio che ha portato alla chiusura di oltre 90 atenei in molte zone del paese. sempre per ridurre la spesa. E questo potrebbe voler dire, tra 10 o 20 anni, non avere una classe dirigente. Oppure avrà una sperequazione, una divisione, una forbice tra quelli che dirigono e che hanno potuto studiare, che se la sono cavata, con tutto il resto del paese che sarà in una situazione di grandissimo disarmante, poca formazione. Queste forbici, queste sperequazioni, queste divisioni di classi molto forti dentro lo stesso paese significano sempre comunque violenza. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.